Avrete presente, suppongo, quella vecchia storiella in cui un tizio va in giro facendo schioccare continuamente le dita e, richiesto del perché di un così strano comportamento, risponde che lo fa per tenere lontano gli elefanti. Ma non ci sono elefanti qui in giro, obietta l'interlocutore. E quello trionfante conclude: vede che funziona. Come barzelletta è abbastanza cretina, eh? Ma forse il tipo di ragionamento che semplifica non è ignoto al nostro dibattito pubblico. È spesso impiegato, per esempio, dal presidente Berlusconi a proposito dell'incombere sul paese del pericolo comunista, o quando, scendendo su un piano più personale, si lamenta perché l'opposizione lo tratta da mostro bavoso e pericolo pubblico. Tutti si affrettano ad assicurarlo che mai si sognerebbero di usare termini tanto derogatori, e lui ribatte: vedete, mi danno anche del bugiardo. Io in questo momento non ricordo bene con quale termine gli specialisti di logica dell'argomentazione definiscano le proposizioni di questo tipo. Deve trattarsi, a occhio, di una specie di falso sillogismo, in cui la falsità dipende da un'inversione nascosta tra conclusioni e premesse. Ma visto che le regole della retorica non sono quelle della logica, se in certi casi, quando il meccanismo verbale è portato alle conclusioni estreme, come nella barzelletta sugli elefanti, l'effetto comico è irresistibile, e oltre che nella barzelletta degli elefanti succede spesso quando è di scena al capo del governo, altre volte l'argomento rischia di sembrare plausibile. Così, questa settimana se ne sono serviti con larghezza, sia pure in una forma leggermente modificata, tutti coloro che dal ministro Giovanardi all'onorevole Rotelli ai fondisti del Corriere della Sera hanno insistito sulla necessità di non ritirare le nostre e altrui truppe dal territorio iracheno. Perché cosa significa sostenere che la permanenza delle forze d'occupazione è essenziale per salvare quel paese dal terrorismo e dalla guerra civile, se non invertire le premesse con le conclusioni, o se preferite la causa determinante con quella finale? È evidente che il terrorismo e la guerra in quel paese ce li ha portati l'occupazione, e che affidare agli occupanti il compito di porvi fine rappresenta una contraddizione logica irredimibile. Anche se questo, chi sostiene questo punto di vista, interessa poco. La logica con quelle tesi intrattiene lo stesso rapporto che la volontà di dominio, di sfruttamento e di controllo strategico ha con il sincero interesse per lo sviluppo della democrazia in un'area cruciale del mondo. E se vi sembra un po' eccessivo presumere una volontà di dominio nel governo italiano e in quella parte dell'opposizione che nell'ipotesi preferirebbe non opporsi più di tanto, posso anche darvi ragione, ma l'obiettivo in quel caso diventa quello di una solida e durevole subordinazione alla politica degli Stati Uniti, che significa praticamente la stessa cosa e anzi è peggio. Per il fondo del Corriere di giovedì scorso, quei senatori del centro-sinistra che hanno votato no al rifinanziamento della missione italiana sono prigionieri del passato. Come a dire che non hanno capito che sull'Iraq l'Europa ha deciso di voltar pagina e che ora, dicono, si può lavorare con Bush alla stabilizzazione del paese e dell'area. Nella sinistra italiana, invece, leggo, nessuno ha intenzione di entrare in conflitto con la propria base notoriamente contraria alla guerra. Ci mancherebbe altro. Come dire, sotto sotto, che l'unica forma di collaborazione politica accettata passa per l'accettazione dello status quo militare, con tutte le sue simpatiche conseguenze, e che a tal fine si può, anzi si deve, disattendere il mandato ricevuto dagli elettori. Così ragionano, o dovrebbero ragionare, i politici dotati di un vero sano realismo, quelli che non hanno paura né di Bertinotti né di quello insopportabile anticaglia che è il pacifismo. Io, francamente, preferisco le barzellette sugli elefanti.